24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Eppur si muove, così lo ha bollato, ha detto su Twitter Matteo Renzi. Eppur si muove, la legge elettorale è ufficiale, cari italiani, il 27 gennaio la legge elettorale sbarca in aula, la discussione sulla riforma elettorale. Ma non è tutto straordinario, proprio mentre si chiude la 36esima settimana decisiva di questa legislatura per la riforma elettorale, nonché la 36esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Noi siamo qua a contare, poi vi daremo aggiornamenti. Eppur si muove. Eccoci qua, buongiorno, questo è 24 mattino. E c'è Miriam Lucchetti in redazione insieme all'alpino Peter Bescapè, reduce da una festa di alpini, e cosa potrebbe essere se no, e quindi mi lascio immaginare la faccia oggi del nostro alpino. Va bene, puoi aprire il barlamento, ce la fai? A tirare su la serranda? Sì, ce la si fa. Il caffè volentieri a tutti quanti. Allora Allora, eppur si muove, voglio salutare un graditissimo, due graditissimi ritorni nel 2014. Da un po' di tempo mancava Luisella Costamagna. Come va, Luisella? Eccoci. Buongiorno. Bene, raffreddata, ma bene. E vabbè, sono malanni di stagione, che devi fare? Voglio salutare anche Vladimir Luxuria. Buongiorno, ben ritrovata, eccoci qua. Buongiorno. Ecco, raffreddata, no? Tutto a posto, no, tutto a posto, in splendida forma, vabbè. Fa quel che si può, splendida, sì. Insomma. Certo. Allora, eppur si muove, avete visto? Cara Luisella, ci siamo, dai che ci siamo, dai con la riforma. È quasi fatta. È quasi fatta. Davvero, come dicevi tu, le scadenze sono sempre le prossime, per cui adesso si diceva, ieri leggevo l'intervista a Franceschini sul Corriere della Sera, che diceva prima delle europee dobbiamo fare le tre priorità, per cui questo governo è nato 9 mesi fa. Adesso, dopo 9 mesi, siamo ancora con le tre priorità: il lavoro, la legge elettorale, Italia e i costi della politica. Adesso il 27 gennaio legge elettorale, vedremo, perché poi alla fine devono anche mettersi d'accordo su un modello spagnolo, tedesco, vegano, montano, sindaci, dei canguro, monaci. Ma no, fammi capire, ma tu hai passato il giovedì leggendo l'intervista di Franceschini al Corriere? Lo so, perché mi voglio del male, è una trasgressione. No, va bene, ho capito, poi dopo una dici perversione. Sono raffreddata, è il minimo che ti possa capitare dopo non queste... ho gli anticorpi, vedi, le difese immunitarie di fronte a questo non reggono. Vabbè, io lo dico sempre, non so se Vladimir. Ma Vladimir, quando eri parlamentare si parlava di riforma elettorale, no? E non No. Sì, se non parlava, ma non era ancora l'argomento, quello più. Bisogna. Sai, quando c'è un governo che non è stato in realtà eletto dal popolo, è una coalizione che nessuno ha scelto se non a tavolino, bisogna essere molto più severi, perché uno nasce dicendo che le nostre priorità sono fare la legge elettorale, lo diceva già Monti. Quindi adesso speriamo che questo 27 gennaio si cominci, insomma, che duri poco, ecco. E quello che mi auguro è che duri poco la discussione, che ci sono tanti di quei problemi che mettessero d'accordo subito. Ma che duri poco? Ma ti pare normale che il 27 si mettono d'accordo e il 28 abbiamo la legge elettorale? Ma dai, ma no. Magari in un giorno no, però insomma in pochissimo tempo davvero me lo auguro, perché non lo so a quanti appassiona. Io non lo so quante puntate di... dedicheranno alle leggi elettorali. Secondo me anche i talk show dedicheranno poco, perché l'audience sarebbe un crollo. Io da giorni lo dico, quando il costituzionalista Ainis ha scritto domenica: non ci sia accidenti, che è difficile capire sulla legge elettorale. Io, Luisella, ho scritto: basta fare come me, gira pagina. Cioè, quando appena vedi legge elettorale, gira pagina. È stato stato l'alibi di tutti, no? Questo no, la politica se ne occupi. Se non abbiamo una maggioranza dobbiamo avere questo governo, è colpa della legge elettorale. In realtà io sono per il Nobel a Calderoli, perché ha inventato una diavoleria tipo cubo di Rubik, sì, per cui nessuno vince, non usciamo, perché a tutti conviene non uscirne, questa poi è la realtà. Direi che forse la sintesi molto molto stringata, migliore della politica l'ha data Antonio Di Pietro ieri, sentite. Maria Teresa, noi abbiamo fatto tante cose buone, abbiamo fatto anche delle puttanate mostruose. Ecco, direi che era da Mirta Merlino, credo. Anche ha detto delle puttanate mostruose. Sì, vabbè. Allora, io vi voglio fare un attimo divertire su questo, poi parliamo di cose serie. Ieri è andato c'era la prima udienza del processo nuovo ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito, no? Non so se Vladimir Luxura hai seguito, sai di questa storia, no? Beh, sai che ha detto... Non sono una che è molto morbosa su queste questioni. No, lo so, ma sai che ha detto la buongiorno in aula? Sì, lo so. Vabbè, dai, facciamolo sentire, dai, perché l'ha fatto sentire. Questo tipo di rapporto che c'era tra Raffaele e Amanda è un rapporto molto tenero, che era appena sbocciato. C'è una pagina, che vi prego di leggere, di tutti questi memoriali di Amanda, in cui racconta il modo in cui si baciavano. E racconta che loro si baciavano non come tutti con la bocca, ma facendo un canunca. Un canunca, che altro non è che il bacio degli eschimesi. No, presidente. No, non c'entra nulla. Un canunca nulla a che vedere con Bunga Bunga. Un canunca. Non c'entra nulla, presidente. Vi rendete conto, Luisella? Vi rendete conto? Unca unca, no, non è il bunga bunga, ma c'è in un'aula di tribunale, non lo so. Non lo so, ma è il caso di precisare, forse. No, ho capito, ma facevano unca unca, ma cosa? Vladimir Luxura, hai mai fatto unca unca? Mi manca, devo dire che questo mi manca. Ma posso dirti una cosa? Per me la cosa più inquietante è di vedere una ex presidente della Commissione Giustizia, più che parlare di bunga bunga, quando l'ho vista col coltello in mano, cioè l'immagine di vedere la buongiorno, aveva un coltello in mano in cui diceva vedete, è troppo grande questo, e col dito faceva vedere la lama, quella è una cosa che mi ha un po' impressionata, sinceramente. Vabbè, l'unca unca. Tu, Luisella. Però è un avvocato penalista di primissimo piano, cioè in realtà è molto più il suo mestiere di quanto. Ma dai, diciamo la verità, Luisella, si voleva togliere, no? Siccome lei è stata poi uno dei più grandi critiche di Berlusconi, no? Sul bunga bunga, ha voluto un po'. No, ha voluto. Ma no, io non ci vedo questa polemica politica. Ho visto l'immagine, insomma, il giudice rideva, per cui è stata una precisazione per, insomma, perché faceva venire in mente il bunga bunga. Non buttiamo tutto in politica. Non buttiamo in politica. Allora, vi vorrei chiedere una cosa. Noi alle 8:15 avremo ospite il vice ministro Guerra, colei che ieri sul Corriere della Sera ha detto equiparare le coppie eterosessuali, omosessuali, tutti i diritti uguali, eccetera. Quindi vorrei un parere da voi due sulla questione delle adozioni dei bambini alle coppie omosessuali. Siccome il parere di Vladimir Luxuria già lo sappiamo e ne abbiamo già parlato e ci siamo anche confrontati un'altra volta, prima vorrei quello di Luisella. Luisella, che ne pensi? Ma guarda, io trovo che sia allucinante che stiamo ancora a discutere, credo unico paese in Europa, di una cosa che dovrebbe essere assolutamente legale nel nostro paese, vale a dire l'equiparazione dei diritti delle coppie nella famiglia cosiddetta tradizionale, coppie eterosessuali e coppie dello stesso sesso. Questo ce l'hanno tutti i paesi d'Europa, non si capisce perché noi stiamo ancora a discutere. C'è chi minaccia la crisi, io leggevo stamattina il nuovo centrodestra di Alfano che dice se il PD propone i matrimoni gay sarà crisi. Quindi stiamo ancora a frenare su questo, quindi innanzitutto io credo che sia assolutamente sacrosanto che le coppie omosessuali vengano equiparate nei diritti alle coppie eterosessuali. Però il tema più delicato è quello dell'adozione dei bambini, mi sembra di capire. Cioè qui ha fatto un'apertura il vice ministro Guerra, un'apertura a titolo personale ma non indifferente dal punto di vista, no? L'adozione dei bambini. No, quello secondo me è un passaggio successivo che è assolutamente, anche in questo caso io sono d'accordo, cioè a me è capitato di parlare anche con pediatri che mi hanno spiegato come la gestione della paternità e della maternità è assolutamente identica in una coppia dello stesso sesso rispetto a una coppia eterosessuale. Siamo pieni di coppie eterosessuali che creano traumi a bambini, con separazioni, con litigate furibonde, non è certo, appunto, se c'è l'amore io credo che un bambino possa crescere. Ma questo sì, ma sicura di questo, legittimo. Perché secondo me è proprio questo quello che pone invece a me dei dubbi, Vladimir Luxure, cioè la questione, l'idea di avere una figura materna e una figura paterna, non è una, così, è una cosa strampalata che è legata al passato, che non ha più un valore, che non ha più un senso. C'è anche in una coppia dello stesso sesso, magari Vladimir Luxuria può spiegarci ancora infatti, meglio. Vladimir, perché qui le mie perplessità, sai, te le ho già manifestate in passato, sono proprio su questo. Stavo riflettendo sul fatto che nel 2007, contro il disegno di legge di Dico, Renzi sfilò al Family Day. Oggi Renzi è quello che fa una proposta di legge sulle unioni civili, aprendo anche lui a una forma di adozione. Questo perché? Perché nel frattempo la gente pensa, riflette e soprattutto se ha un ruolo istituzionale cerca di vivere nella società, dentro la società. E Renzi, nello staff di quando ha fatto la campagna elettorale, ha avuto una donna, una ragazza lesbica che aveva una figlia con un'altra compagna e lui ha conosciuto, ha visto una coppia con i figli e ha visto come questi figli vengono tirati su da due mamme, da due donne che assicurano comunque la cura a un figlio. E Renzi ha cambiato idea, così come ha cambiato idea un repubblicano in America che dopo aver conosciuto dei figli adottati da una coppia gay ha deciso, un repubblicano, di votare a favore del matrimonio nello stato di New York. Cosa voglio dire questo? Che forse bisognerebbe innanzitutto conoscere. E poi cambiare idea. Il terrorismo di dire attenzione, i bambini. Non è vero. No, però, tutti Vladimir, gli stati dove è già possibile l'adozione sono stati fatti degli però, disturbi. Però io dico che questi bambini non vengono fuori con disturbi diversi. No, ma è chiaro. Però Vladimir, si usa a volte l'argomento contrario, per esempio anche da parte tua, a dire ci sono casi di bambini allevati da una coppia omosessuale che stanno benissimo, ma nessuno lo mette in discussione, cioè mica sto dicendo che una coppia omosessuale cresce un bambino e questo bambino avrà sicuramente delle turbe, nessuno lo mette in discussione. No, ma voglio dire, ma non è che per questo, siccome ci sono, come quando si dice ci sono delle coppie eterosessuali e sono dei genitori disgraziati, ma questo che vuol dire? Io non voglio assolutamente dire che l'orientamento sessuale di una persona debba significare essere migliori o peggiori genitori. Se una persona ha voglia, ha desiderio di adottare, di crescere su un bambino, di assicurare una medicina se il bambino c'ha la febbre, di assicurargli una ninna nanna prima di andare a dormire, un libro di scuola per andare a studiare, ma meglio che sia adottato da una coppia anche dello stesso sesso piuttosto che continuare a rimanere a sniffare colla in una bidonville in Sud America o di bere infetta da un pozzo malsano dell'Africa. Dobbiamo assicurare un futuro a questi ragazzi. Quindi, però ci sono paesi per esempio che non danno adozioni internazionali alle coppie omosessuali. Sì, ma manco a come la Russia, come i fatti recenti dimostrano. Non è che paradossalmente velocizzare le pratiche di adozioni anche per gli eterosessuali. Sì, peraltro Luisella, però un po' ha ragione, nel senso il Milan ha detto una cosa paradossalmente quello che è successo in Congo è proprio anche in Russia, anche la Russia. Infatti, in Congo ha bloccato tutto proprio perché pare che una coppia omosessuale in Canada abbia in qualche modo ingannato le autorità del Congo e questo ha portato a bloccare le adozioni. Però io sarei un po' più per essere, diciamo, nel mondo occidentale europeo e non prendere come modello di riferimento né la Russia di Putin né il Congo, sinceramente. Questo senza dubbio sottoscrivo anch'io. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi sentiamo la segreteria telefonica, siamo con Luisella Costamagna, Vladimir Luxuria. Vorrei anche chiedervi cosa ne pensate del Jobs Act. Luisella, Jobs Act. Jobs Act. Ecco, bene, sì, bene. Siamo americani. Va bene, va bene, tra un attimo. 24 mattino. Alino subito. Milan, Renzi non è un campione. Sono gli altri che sono coglioni. Ti faccio un esempio, io sono un maratoneta. Vado a New York e vinco perché gli altri non sono capaci di correre. Ma con questo io non sono un campione. In questo paese è possibile che non ci siano mai delle priorità da trovare. La notizia di stamattina è che si cambiano le patenti. È proprio l'ultima cosa di cui sentiamo la necessità con tutti i problemi che ci sono. Incredibile. Ma ci rendiamo conto della confusione mentale che hanno le persone che ci governano? Non capisco niente. Non hanno priorità, va tutto bene, fanno un casino, cioè è incredibile. Sono una generazione educata alla stupidità, alla demenza, alla confusione di ruoli, alla irresponsabilità, al qualunquismo. Ma basta, sti politici sfigati. Buongiorno signor Milan, ho respirato, ho contato fino a tre e il forcone mio è la lingua. Stamattina sto incazzatissimo. Lo sa perché? Perché ogni tanto inventano un vocabolo nuovo per prendere per il culo gli italiani e toglier loro i soldi dalla tasca. Prima inventano spending review, inventano spread, inventano Jobs Act, adesso l'ultima cacata, Jobs Act. Salve, sono sempre Matteo Renzi, volevo informarvi sul mio piano lavoro. Sempre più chiaro. Questo, Luisella e Vladimir, questo non è male. Ogni tanto ci manda i messaggi di Matteo Renzi. Vladimir, il Jobs, hai sentito? Ci abbiamo anche la versione corta, proprio pugliese e stretta, la Jobs Act. Jobs Act. Adesso l'ultima cacata. Jobs Act. No, vabbè. In realtà la questione è un po' più seria, però raccontano tutti i giornali, ma sia Oggi il Sole sia Alessine Giavazzi sul Corriere, ma un'idea dei costi di questo Jobs Act, cioè, perché non lo so, è tutto bello sulla carta, ma avete capito qualcosa voi? Posso? Sì. Ma io dico, ci sono delle cose indubbiamente positive in questa, che è una bozza ovviamente, poi ci sarà una versione definitiva, tipo come un po' la legge elettorale, si torna a dire aumentiamo la tassazione sulle rendite finanziarie, trasparenza nella pubblica amministrazione, riduciamo i costi energetici per le imprese. Dopodiché, al di là dei costi, secondo me c'è un punto che è assolutamente sbagliato e che riguarda i posti di lavoro per i giovani. Si parla in questo Jobs Act di un contratto a tempo indeterminato di inserimento per i giovani a tutele progressive, sì, che prevede la sospensione fino a 3 anni del diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, che è quello che è previsto dall'articolo 18, il che vuol dire che ancora una volta si consentiranno alle imprese di fingere di assumere dei giovani per poi licenziarli entro i 3 anni. Avete già studiato tantissimo. Bene da un punto di vista imprenditoriale, male per i lavoratori, perché ancora una volta si intaccano dei diritti. Capito? Sacrosanti. Vladimir e Luisella ha già studiato tutto. Non è un punto economico, è un punto proprio di merito e di diritti che ovviamente non mi piace assolutamente. Questo è un punto già negativo trovato nel Jobs Act. Vladimir, tu sei riuscito ad approfondire questa cosa oppure sui giornali l'hai capito? No, ho un po' letto, è vero, si tratta solo di una bozza. È stato parlato di un dato così negativo sul quale comunque ancora si può discutere, però ci sono anche delle cose secondo me positive, per esempio, che sono state anche apprezzate un po' anche dai sindacati. Per esempio, togliere tutte quelle varie forme, quella giungla di varie forme di rapporti, sì, di lavoro. Fare una riforma unica, cioè di avere un unico otto mesi. Un unico contratto, diciamo, perché adesso veramente ci sono tutte quelle sigle, eccetera. Poi credo anche che l'eliminazione dell'obbligo dell'iscrizione alla Camera di Commercio sia qualcosa, sinceramente, secondo me, positiva. No, insomma, ma è chiaro, cioè, sulla carta, voglio dire, sono tante cose, però... Anche l'idea che lo Stato si prende carico, lo so che questo adesso tu mi dirai dove riprendi i soldi, però voglio dire, anche l'idea che un ragazzo che non ha lavoro, adesso siamo al 41%, uno, insomma, lo Stato deve aiutare questi ragazzi, poi dopo ti dice, ok, tu devi... Ti obbligo però a fare una formazione professionale e ovviamente se non accetti una nuova proposta di lavoro questo aiuto che noi ti diamo viene meno. Io credo che sia una buona traccia, sinceramente, adesso a parte l'uso dell'inglese, eccetera. Vabbè. Adesso facciamo sentire anche Civati, sentite Civati su Jobs Act. Mi chiedo qual è la sua concretezza, perché ripeto, in questo Jobs Act, che io ridendo chiamo Steve Jobs Act, perché è molto creativo, ci sono... Ecco, Steve, siamo già allo, no? Steve Jobs Act. E poi posso negarvi il brunetta del giorno? Eccolo lì, io senza un brunetta al giorno non brunetta. Ma dilettanti allo sbaraglio. Poche battute inconsistenti, generiche, fatte da chi non sa o non vuole dire più di tanto. Il risultato è veramente una cosa imbarazzante. Renzi non sa cosa si è fatto in Parlamento, cosa ha fatto il governo, cosa ha fatto Poi, dilettante lo sbaraglio. Vladimir, io senza Brunetta al giorno non so, mi mette buon umore. A me piace sentire la voce di Brunetta che dice qualcosa, una delle sue battute. Non... No? Però ognuno ha il suo modo, diciamo, per andare avanti, no? Ma così io lo trovo invece sempre uno delle persone più scoppiettanti quando parla. No. A me fa l'effetto contrario, devo dire, è un po' come leggere l'intervista di Franceschini sul Corriere. Quella la ritengo una perversione. Esatto. Allora vi voglio far sentire Alfano, visto che ha detto la questione. Senti Vladimir, è così. Visto che tra l'altro via SMS mi scrivono: complimenti Milan, parli delle coppie gay e delle adozioni con due persone schierate. Oh, due persone schierate, che sono Luisella Costamaglia e Vladimir Luxuria. Bella apertura mentale, come al solito, evviva. Allora, per par condicio, mettiamo Alfano, così siamo tutti contenti. Per fare scudo a delle cose che la sinistra farebbe se non ci fossimo noi. Quindi basta pensare a matrimoni gay, frontiere libere aperte agli immigrati, adozioni dei bambini da parte delle coppie gay e legalizzazione della cannabis per capire qual è l'universo valoriale e programmatico. Ecco, questi sono i vostri valori. Posso leggere una letterina ad Alfano, veloce? Sì, certo. Allora, caro Alfano, virgola, l'unico matrimonio contro natura è quello per interesse. E lui è un esempio, perché questo matrimonio contro natura per interesse suo, che ha fatto con Letta, è un esempio. E posso dire che anche il divorzio contro natura con Berlusconi è stato per interesse poltronista. Matrimoni che si basano sull'amore, sul rispetto e sul senso di responsabilità sono tutti rapporti legittimi, di cui lui se ne deve fare una ragione, perché punto. L'Italia deve rimanere in Europa e non deve diventare uno stato talebano come vorrebbe lui. Punto. Che letterina, vedi? No? Invece la letterina Babbo Natale, cara Luisella, ne aveva una per Alfano. Della Befana. della Befana per Alfano. Luisella, ma che fai? Manca un minuto, ma torni in TV, vedo delle robe, che succede? Dai, fatti un po' di promozione. Il 30 gennaio, canale 117, è un programma molto bello, serie a proposito di, in realtà, di giovani a rischio. Puoi dirlo il canale, qual è, se te lo ricordi? 117. No, sì, ho capito. Ma... Crime Investigation, CI, il nome americano. La serie è una serie di documentari americani che nascono da un documentario che ha vinto l'Oscar nel 78 ed era narrato da Peter Falk, il produttore esecutivo è lo stesso che vinse l'Oscar, ed è la morale è per salvare i giovani a rischio americani che hanno avuto problemi di delinquenza, li si porta in carcere per un giorno per tenerli fuori tutta la vita. Bene, è una cosa bene. Molto forte, scioccante per certi versi, ma sono programmi riabilitativi che nel 90% dei casi hanno successo. Che bello, ti vedremo in questa nuova esperienza il 30 gennaio. Bene, bene. 30 gennaio, grazie. Prima serata Crime Investigation. Evviva, evviva Luisella Costamagna, evviva, grande sì. Anche Vladimir Luxuria che continua col suo libro, lo cito sempre, l'Italia migliore, evviva! E allora grazie per essere state con noi, ci fermiamo, è tempo di giornale radio, alla prossima. Jobs Act, adesso l'ultima cacata, ultima cacata, Jobs Act. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Ed eccoci, eccoci qui, sono le 8. Sono le 8. Classico inizio che dici, ma vattene. Sono le 7:18. Ecco, questo è l'inghippo. Erano le 18 che mi hanno fregato, i 18 minuti. Vabbè, comunque, razza di debosciati, che fate? Andate a lavorare. Se un lavoro ce l'avete, se no attendete il Jobs Act. E comunque, siamo qui a raccontare quello che... scrivono i giornali e vi ricordo il tema che approfondiremo oggi. Avremo ospite il vice ministro per il lavoro Maria Cecilia Guerra, colei che ha la delega per le pari opportunità, che ieri in un'intervista al Corriere ha lanciato l'idea di equiparare le coppie eterosessuali ed omosessuali, con anche l'apertura all'adozione dei bimbi per le coppie dello stesso sesso. E questo ha suscitato, avete sentito la reazione di Alfano, ce ne andiamo dopo un secondo se propongono una cosa del genere. Ne parleremo con Maria Cecilia Guerra, per l'appunto. Saranno con anche Lucetta Scaraffia, che è editorialista dell'Osservatore Romano, e avremo ospite anche Tommaso Giartosio dell'associazione Famiglie Arcobaleno. Questo più avanti, ora andiamo a scoprire cosa ci propongono i quotidiani. È venerdì 10 gennaio, è venerdì, chiusura della 36esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché 36esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Vediamo i titoli. Il Sole 24 Ore apre così: BCE ripresa ancora lenta, pronti a nuovi interventi, Draghi ulteriori azioni decisive se necessario. Poi lo sfogo di Saccomanni in prima pagina sul Corriere della Sera. Saccomanni basta con il tiro al bersaglio, Saccomanni reagisce agli attacchi. Repubblica invece è un'intervista che il direttore Zio Mauro fa a Marchionne, il numero uno della Fiat. Ecco il futuro della Fiat, tra poco vedremo, partiamo proprio da questa interessante intervista su Repubblica. Per La Stampa invece Renzi, Letta, prove di disgelo. Ma la situazione al governo molto complicata e traballante è il frutto di titoli anche del Messaggero: alta tensione nel governo, per il giornale fuga dal governo, mentre Avvenire la maggioranza balla, Letta no, diktat inutili, mentre per Libero governo allo sbando, aiuto torna Monti, questa sarebbe l'ipotesi secondo Libero definita agghiacciante, via Saccomanni, al suo posto Monti. Il Secolo XIX invece Alfano apre, legge sul voto in aula dal 27, la riforma elettorale per l'appunto, mentre il quotidiano L'Unità, Renzi, Letta ai ferri corti, ecco anche qui sulla situazione di governo difficile. Mentre il Fatto Quotidiano, scandalo De Girolamo, i partiti non se ne parla. La questione sono delle intercettazioni che il Fatto Quotidiano mette in pagina da giorni e lo vedremo tra pochissimo anche questo. Mentre il Manifesto gioca sul Jobs Act e il titolo di prima pagina con la foto di Renzi è Ci giobbano, il piano lavoro di Matteo Renzi, che raccoglie consensi ma anche molte perplessità. Voglio partire però dall'intervista che Zio Mauro, direttore di Repubblica, fa all'amministratore delegato della Fiat Marchionne, perché non è come al solito quando parla Marchionne è solo un'analisi dell'azienda Fiat, ma anche un'analisi del sistema Italia. Ecco il futuro della Fiat, questo è il titolo di prima pagina. L'intervista inizia in prima pagina e poi prende entrambe le pagine 2 e 3. Che succede allora? La Fiat si è comprata la Chrysler. Quel che dovevo dire l'ho scritto il giorno dopo la firma ai 300.000 dipendenti del gruppo. Ora dobbiamo soltanto lavorare perché questo sogno che abbiamo realizzato e che inseguivo dal 2009 si metta a camminare. E intanto ecco la prima stilettata di Marchionne al sistema Italia. Se porti un'idea nuova, in Italia trovi subito 10 obiezioni. In America, nello stesso tempo, trovi 10 soluzioni a possibili problemi. E poi è arrivato Obama, che ci ha sempre sostenuti. Comunque, non siamo i padroni di Chrysler. Chi dice così dice male. La nostra non è una conquista, è la costruzione di un insieme. Non ci sentiamo padroni di Chrysler, ma qualcosa di più e di meglio. Abbiamo creato una cosa nuova. Racconta poi Marchionne in questa lunga intervista. La nuova società avrà un nome nuovo e alla domanda di Ezio Mauro quando avverrà la fusione, spero subito, e dove sarà la sede della nuova società, risponde Marchionne, lo decideremo anche in base alla scelta di borsa, ma è una questione che ha un valore puramente simbolico ed emotivo. La sede di CNH Industrial si è spostata in Olanda, ma la produzione che era qui è rimasta qui. E però qui vediamo alla questione delle accuse a Marchionne, cioè, dice Zio Mauro, 4,4 milioni di vetture prodotte da Fiat Chrysler, appena la metà di Toyota. L'accusa insomma è quella di essere un abile negoziatore ma non di essere un costruttore. Ma qui Marchionne tira fuori un po' il suo orgoglio e dice: beh, mi scusi, che ne sa per esempio di quello che stiamo facendo per l'Alfa Romeo? Sa della Maserati a Grugliasco, dove lavora gente in guanti bianchi a scegliere le rifiniture in pelle per andare sui mercati del mondo, ma non sa che in capannoni fantasma, mimetizzati in giro per l'Italia, squadre di nostri uomini stanno preparando i nuovi modelli Alfa Romeo che annunceremo ad aprile e cambieranno l'immagine del marchio riportandola all'eccellenza assoluta. E perché non lo avete fatto prima? Perché mi servivano due cose, la capacità finanziaria, e oggi Chrysler finalmente come utile, come cassa mi copre le spalle, e un accesso al mercato mondiale. Oggi se mi presento con l'Alfa negli Stati Uniti è una rete mia di 2300 concessionari capaci di portare quelle auto dovunque in America rispettando il DNA italiano. E dunque, chiede Zio Mauro, mi pare di capire che non venderà l'Alfa Romeo ai tedeschi. Se la possono sognare, questa è la risposta di Marchionne. Titolo dell'intervista, ovviamente dice tante cose, la Fiat con Chrysler ha realizzato un sogno, faremo auto di alta qualità e gli operai torneranno tutti, punto sui nuovi modelli Alfa, ecco il piano. Dunque punta a rilanciare ad aprile, dice l'Alfa Romeo. Marchionne, svelando un po' anche qualche giallo, dice ci sono dei capannoni fantasma mimetizzati nei quali stiamo studiando in tutta Italia la nuova Alfa Romeo che lanceremo ad aprile. Dicevamo invece, per tuffarci già nella pagina molto sconclusionata della politica italiana, citavamo nei titoli Nunzia De Girolamo, ministro dell'agricoltura. Da qualche giorno il Fatto Quotidiano sta pubblicando una serie di intercettazioni. Sono intercettazioni che sono state fatte da un direttore di una ASL, credo di Benevento, che è stato poi cacciato, si chiama Pisapia. In queste intercettazioni sono più che intercettazioni, sono registrazioni che questo stesso Pisapia ha fatto di nascosto, cioè andava a degli incontri con De Girolamo quando ancora tra l'altro non era ministro e registrava un po' tutto. E tra l'altro in queste intercettazioni, come racconta il Corriere della Sera, Fabrizio Roncone a pagina 10 e 11 nell'articolo, c'è un'intercettazione nella quale questo dirigente sanitario dell'AS di Benevento è a casa di Nunzia De Girolamo, una registrazione del 30 luglio. Presenti oltre al dirigente e altri due manager della sanità, la De Girolamo, due suoi stretti collaboratori, e Nunzia De Girolamo a un certo punto, parlando del bar all'interno dell'ospedale di Benevento, urla: facciamogli capire che abbiamo un minimo di controllo e di comando, mandiamogli i controlli e vaffanculo. È in discussione la licenza del bar, che per molti anni è stato gestito da una SRL composta dalla famiglia di parenti di Nunzia De Girolamo, al che Fabrizio Roncone del Corriere va a chiedere di questa intercettazione. Ma no, ma guardi, risponde De Girolamo, quello che dovevo dire l'ho detto, parlavate come un comitato d'affari, chiede il Corriere della Sera. Ma che, quegli stralci di intercettazione ambientale abusiva non sono contestualizzati, non si colgono sfumature, colori, emergono solo le negatività. Scusi, chiede il Corriere, ma lei fornisce la netta sensazione di dare ordini, di parlare come qualcuno che comanda sui dirigenti della ASL. Senta, risponde il ministro De Girolamo, la vicenda su cui molti si sono gettati come avvoltoi è nelle mani della magistratura, io non sono indagata. Sì, ma lei fornisce la netta sensazione di dare ordini, ma chi? Su cosa? Non faccio mai riferimento a promozioni, non chiedo di avvantaggiare, affronto le questioni del territorio. Poi però lei perde la pazienza per il bar gestito dai suoi parenti. Vabbè, ho usato parole non esattamente consone a una signora di classe, e che ci posso fare? Quanto perbenismo, stavo a casa mia, potrò parlare come mi pare a casa mia, sì o no? Chiede e risponde così Nunzia De Girolamo. Beh, ma per alcune poche battute dice che per esempio Clemente Mastella, lui sarebbe già stato indagato. No, guardi, non posso entrare in polemica con Mastella, risponde De Girolamo, sarebbe squalificante per me e anche per lei che sta qui a intervistarmi. Vabbè, Nunzia De Girolamo risponde così, il Fatto Quotidiano rimette la vicenda in prima pagina, visto che l'ha tirata fuori il quotidiano di Padellaro, e dice la politica non reagisce a nulla e non fa niente, e continua queste polemiche di queste intercettazioni ambientali fatte abusivamente da questo dirigente o ex dirigente di Benevento. Un altro politico, prima di lasciarvi per la pubblicità, che è un po' in difficoltà da un po' di tempo, è il famoso politico della casa a sua insaputa, anche se questa frase bisogna dire una volta per tutte, non l'ha mai detta così, virgolettata, a mia insaputa, ma è diventato la casa al Colosseo comprata con soldi a mia insaputa. Beh, l'ex ministro Claudio Scajola ora rischia 3 anni, questa almeno è la richiesta dell'accusa al processo, condannate Scajola a 3 anni, il processo a Roma. Scajola si difende, intervistato dal Secolo XIX da Marco Menduni a pagina 5. Mi pare spropositata questa richiesta, comunque una soddisfazione me la sono tolta. Ho avvicinato i PM senza essere sospettato di interferenza alla fine delle loro richieste e ho fatto un ragionamento logico. Ho detto loro, voi chiedete la mia condanna perché sono un ex ministro, una persona importante, intelligente, sicuramente non uno sprovveduto. E allora vi pare possibile che se avessi voluto architettare un illecito l'avrei fatto in questo modo? Fossi un delinquente mi sarei fatto portare una borsa con 900.000 euro in contanti. Ma è una cosa da matti pensare di organizzare un tale tourbillon di denaro e farlo lasciando tracce indelebili con tutti quegli assegni circolari. Al che Menduni del Secolo dice, beh, senta, ministro o ex ministro, si può rispondere che il potere dà una convinzione di immunità permanente. Questa me l'attendevo dall'inchiesta, l'ha detto stamattina il mio avvocato, che ha attaccato violentemente l'operato della Guardia di Finanza. Questa indagine è incompleta, fatta su accostamenti, deduzioni, suggestioni, ma senza seguire quel denaro. Seguire quel denaro avrebbe potuto delineare altri scenari. E poi ribadisce ancora Scajola, il valore di quell'abitazione corrisponde davvero alla cifra che ho pagato. Eccolo qui. Comunque, l'ex ministro rischia 3 anni di carcere, la casa a sua insaputa. Il più freddo commento è sul Fatto Quotidiano. 3 anni di carcere la richiesta per Scajola, ora sa. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccolo lì, eccolo lì. Dovrò mandare un regalo di Natale a questa simpatica ascoltatrice, per la stima. Grazie, grazie davvero. Allora, la legge elettorale, cosa devo dire? Devo aggiungere qualcosa? No, io lo dico sempre quando vedo le cose sulla legge elettorale, anche un po' per rabbia a volte, trac, giro pagina, appena vedo la legge elettorale, fruc, giro pagina. Comunque, insomma, vi informo che il 27 gennaio andrà in aula la questione, il dibattito sulla riforma elettorale. Quando uscirà dall'aula? Uscirà dall'aula soprattutto una riforma elettorale? Ah, questo Non domandatemelo, non lo so. Nostradamus forse lo saprà. Il mago Telma, io no, certamente non lo so. Matteo Renzi ieri ha commentato su Twitter: eppur si muove. Sta di fatto che tutti i giornali, come abbiamo detto, raccontano di una maggioranza di governo quantomeno traballante. Per esempio, c'è il giallo dell'incontro Renzi-Letta. Si dovevano vedere tra ieri e oggi. Si vedranno? Anche qui non si sa. Secondo alcuni giornali è dato per certo, per esempio Repubblica, a meno di un ripensamento dell'ultimo minuto, scrive Goffredo De Marchis oggi a pagina 7, Matteo Renzi varcherà a brevissimo il portone di Palazzo Chigi, probabilmente già stamattina. Allergico alla liturgia della delegazione degli appuntamenti istituzionali, il sindaco di Firenze depista, fa dire che l'incontro con Letta è rimandato a dopo la direzione del PD del 16, si lascia un margine di libertà, il premier lo aspetta. Eccolo qua, io ieri l'ho detto, che brividino. Si vedranno, non si vedranno? Certamente anche questo è uno degli argomenti che affronterete starete affrontando in questo momento nelle vostre colazioni sontuose prima di andare al lavoro. Si vedranno oggi Renzi e Letta per stabilire come andare avanti sul termine dell'impegno 2014? Ecco, vi lascio anche con questo puntone di domanda. In mattinata si svelerà l'arcano. Secondo il Sole 24 Ore invece è gelo, e quindi è gelo tra Letta e Renzi slitta l'incontro. Questo è l'articolo che trovate a pagina 11 sotto il tema legge elettorale. Però che ci sia Maretta, insomma, lo si capisce anche nell'articolo di Fabio Martini a pagina 3 della Stampa. Con lui non polemizzo, in 10 giorni chiudiamo. Questa frase attribuita a Enrico Letta al premier è accaduto un'altra volta nei corridoi ovattati di Palazzo Chigi. San già che la scena si ripeterà come un serial. Ogni volta che Enrico Letta prende l'ultimo sgarbo, piccolo o grande, assestatogli da Matteo Renzi, reagisce sempre allo stesso modo. Sorride e ripete i suoi il medesimo concetto. Non gli replicherò mai in modo polemico, diretto e personale. Perché Letta, scrive la Stampa, è uno straordinario, fuori classe, incassatore assoluto e in cuor suo sa di essere l'avversario più ostico per un attaccante come Matteo Renzi. Ecco, è vista un po' così, con la metafora calcistica. Centravanti Matteo Renzi, difensore centrale Enrico Letta. Se siete appassionati di calcio ci siamo capiti. E la vicenda Sacco-Manni, certamente una vicenda che ha lasciato strascichi, per esempio quella polemica, come raccontavamo ieri sul Foglio, quello scherzi a parte. Siamo su scherzi a parte, la vicenda degli insegnanti 150 euro, così la bollata a Matteo Renzi. Saccomanni non ha certamente gradito e racconta il Corriere della Sera con Antonella Baccaro a pagina 3, il ministro non lascia e convoca i dirigenti, mai più scivoloni, non ci penso neppure a dimettermi, ma bisogna che la smettano con questo tiro al bersaglio. Così Saccomanni, provato ma non al punto da abbandonare via 20 settembre il ministero, lo ha detto ieri pomeriggio in un incontro con i suoi dirigenti. Certo, parla di figure da evitare, tanto che addirittura racconta il Corriere in una versione raffazzonata della relazione tecnica, la legge di stabilità giunta in Parlamento, figuravano ancora note del tipo sulla tale copertura chiedere a Caio, cioè una sciatteria o una mina piazzata sul cammino già impervio della legge di stabilità. Ecco, questo, per tutti questi motivi Saccomanni, anche con le polemiche affiorate sui giornali, smentite dallo stesso ministro, ma possibili con il commissario alla spending review Cottarelli, tutte ragioni per le quali Saccomanni ha radunato ieri i suoi dirigenti per capire di più le responsabilità, dare a tutti un maggior senso di responsabilità e ribadire non mi dimetto certo. Anche se Libero in prima pagina dice aiuto, torna Monti, perché parla di questa ipotesi definita dallo stesso Libero agghiacciante, e cioè la possibilità che Saccomanni in un rimpasto di governo venga sostituito, al suo posto si parla di Mario Monti, ma questa ipotesi per la verità lo leggo solo in prima pagina su Libero. Come detto, però, è molto la discussione anche su questo Jobs Act. Ora ci sono ovviamente anche tutte le prese in giro, comunque le discussioni sul perché sia stato scelto questo acronimo americano, Jobs Act. Comunque è una riforma del lavoro Interessanti sono due i commenti. Beh, Jobs Act, ci sono state le aperture della CGIL, l'ok di Cisle Will, l'Europa ha dato un primo sì al piano lavoro di Renzi e lo ha fatto con il commissario europeo Laszlo Andor, che era ieri in Italia. Due commenti interessanti. Il primo è di Alberto Orioli sul Sole 24 Ore, l'abbiamo sentito anche nel GR24. Scrive Orioli: Renzi si è dato 8 mesi per riformulare un codice del lavoro, non dovrà essere un tempo speso a guerreggiare ad uso dei media con slogan o battute. Da quanto è intuibile nello scarno messaggio affidato dal leader del PD ai social network, l'approccio è comunque molto innovativo. Per la prima volta in modo esplicito il tema più divisivo della storia nazionale viene affrontato sulla base dell'assunto che il lavoro non lo fanno le regole, ma le idee e i prodotti, dunque le imprese. Mai più confronti campali sull'articolo 18, quindi, ma occhio ben vigile sul vero contesto per lo sviluppo. L'obiettivo è svegliare la bella addormentata Italia. Ma, scrive Orioli, per passare dalle fiabe alla realtà bisognerà considerare soprattutto i costi della vasta operazione proposta da Renzi. Sui costi si concentrano anche Alesina e Giavazzi. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, editorialisti del Corriere della Sera, fanno in prima pagina del Corriere un commento dal titolo «Osare di più è necessario», parlano di quello che definiscono il liberismo di sinistra. È liberismo di sinistra, per esempio, non lo è quello che ha fatto lo Stato cercando di combattere la disoccupazione al Sud e creando per anni posti di lavoro pubblici con risultati di sprechi, corruzione e un'economia privata che non riesce a competere. Un altro esempio è la cassa integrazione, meccanismo che proteggendo il posto di lavoro anziché il lavoratore ha impedito che imprese più produttive rimpiazzassero imprese inefficienti. Ebbene, scrivono Alesina e Giavazzi, Matteo Renzi sembra, ma la prudenza è d'obbligo, aver sposato invece una visione liberale di sinistra. Il difficile viene ovviamente ora. E parlando del Jobs Act, Alesina e Giavazzi scrivono: sulle spese ha detto che ogni risparmio dovrà essere destinato alla riduzione del cuneo fiscale. Bene, ma sulle cifre non ci siamo. Renzi cita 1 miliardo di euro di risparmi sui costi della politica. Non bastano. Perché non cancellare 10 miliardi di sussidi alle imprese? Bene la proposta di avviare un processo verso un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti, il progetto di Ichino, ma troppo vago l'idea di un assegno universale per chi perde il posto di lavoro, anche per chi oggi non ne avrebbe diritto. Bisogna chiarire che questo assegno deve sostituire la cassa integrazione. Infine, ed eccola qui la critica più generale, si devono quantificare i costi di queste riforme. Le si possono fare continuando a soddisfare anche per i prossimi 2 anni il vincolo del 3% sul deficit dei conti pubblici? A noi pare di no. Scrivono Alesina e Giavazzi. Vabbè, il tema è dibattuto, ovviamente uno dei più critici, ma neanche tanto, neanche troppo. Su questo Jobs Act è Stefano Fassina, l'ex viceministro, si è dimesso per la battuta o non per la battuta, per divergenze politiche, e fa 2 interviste, una al Manifesto, intervistato da Daniela Preziosi, il titolo è «Per il lavoro serve un piano B», e sulla Stampa il concetto di Fassina è «Sono anche condivisibili i punti di Matteo Renzi, ma al momento non è un piano, ma solo un indice di titoli». Certo, largamente condivisibili, coincidono con quelli contenuti nel documento di lavoro approvato dall'Assemblea Nazionale del PD nel 2010, mancano però alcuni titoli decisivi. Vabbè, insomma, Fassina già si toglie qualche sassolino e comincia a fare un po' una opposizione interna a una critica a Matteo Renzi. Ma io voglio salutare Mauro Meazza, come sempre. Mauro, eccoci qua. Buongiorno. Allora, qualcosa come sentito sul Sole abbiamo già letto, sul Jobs Act soprattutto, ma non c'è solo quello, chiaramente. Sì, sì, devo dirlo in inglese, perché vedo che la riforma del lavoro adesso si chiama Jobs Act. Ma io l'ho detto, se la chiamiamo riforma del lavoro, magari i sindacati se ne accorgono e non passa. Non so, perché ci sono delle corrections ancora in vista per l'IMU, e sì. Le racconta molto bene Movi. No, c'è un pasticcetto. Dunque, ci avevano detto che se quelli che hanno dovuto pagare l'IMU, ad esempio le seconde case, gli immobili commerciali, eccetera, a dicembre, ci dice la legge di stabilità, abbiamo tempo fino a giugno per rimediare a qualche errore. Però adesso, come raccontiamo, invece dice no, dovete rimediare entro il 24 di gennaio. Un pasticcetto che si sta creando in Parlamento, speriamo che, come dire, poi prevalga la ragionevolezza, la consciousness di questo pasticcio. E poi naturalmente c'è tutto lo sviluppo della TASI, hai visto, è un'imposta, certo, meravigliosa, federalista, potrebbe superare le 100.000 situazioni diverse, cioè come un paese 100.000. Che vai, TASI che trovi. Beh, insomma diciamo, dire, visto che si deve andare verso la semplificazione, mi sembra, sì, mi sembra, diciamo che ognuno se la fa un po' a sua misura, ecco, come gli piace se la veste. Sarà, non sarà semplicissimo fare i conti, però poi saremo qui a raccontarlo giorno dopo giorno. Se tu volessi quotarti in borsa, vuoi quotarti in borsa, Alessandro? Guarda, non lo so, adesso ci penso. Mettiamo che tu voglia farlo. Comunque, se tu volessi farlo, c'è un bel lavoro di Vito Lops e altri colleghi che fanno proprio vedere i costi del quotarsi in borsa. Nelle pagine di Finanza è chiaramente magari più dedicato alle aziende come lavoro, le imprese che possono essere interessate a questo sviluppo. Oh, e poi mi raccomando, studiati la mini IMU, sì, quello da pagare il 24 gennaio, sei preparato? No, guarda, prof, no, su questa mi sa che fino a luglio arriveremo e non mi entra in testa questo capito. No, fino a luglio a studiare, insomma, cioè, anche a studiare, poi. Sì, bisogna sempre studiare, come dicevano anche i latini, però sappi che entro il 24 gennaio hai da pagare sto piccolo residuo se il tuo comune ti ha spostato l'aliquota, cominciamo a spiegarti un po' di regole nelle prime pagine del Sole 24 Ore, poco alla volta, mi raccomando, non facciamo, certo, figure anche di fronte. Ma sai che tra l'altro, Mauro, invece sono arrivato questa mattina e non sapevo di una notizia, cioè l'ho appresa proprio dai giornali, però credo che sul Sole 24 Ore, non essendoci le pagine di sport in sé, non trovi molto spazio. Non so, ma questioni che riguardano il nord-est produttivo? Perché penso ci sarà sicuramente qualche indicazione sulla Gazzetta, nostra... Sì, sulla Gazzetta devo dire l'ho trovata la notizia, così, sulla Gazzetta così. Ufficiale? No, sulla Gazzetta dello Sport, se ti leggo il titolo. No, non ho fatto a tempo a vederla ancora. Zero titoli. Non so, non riesco a capire questa cosa. C'è evidentemente una diminuzione, o forse un disturbo sulla linea. Un disturbo sulla linea. Comunque vogliamo, nel salutarti, chiarire, perché ho detto sì che Jobs Act è un acronimo. Certo, perché la gente pensa che Jobs sia i lavori. No, è l'acronimo. Tu l'hai letta questa, la sai cosa vuol dire? Io me l'hanno suggerito, ovviamente. Jobs sta per Jumpstart Our Business Startup Act. Ecco, questo è già, ma vi rendete conto? Ma io non ce la posso fare, devo prima prendere un certificate, un first, ecco, e poi posso affrontare la questione. Questo è il Jobs Act, come fece Obama, il Jumpstart Our Business Startup Act. E va bene. Ho capito, fammi dire una cosa allora, have a nice weekend. Ecco, grazie anche a te, ciao a Mauro Meazza, ci troveremo lunedì. E vi rendete conto, cioè questo è l'acronimo per la riforma del lavoro, il Jobs Act, Jumpstart Our Business Startup Act. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, alle 7:48 minuti, eccoci qua per chiudere la pagina di politica. C'è insomma il borsino Toti, lo si può chiamare così, all'interno di Forza Italia, fa segnare una giornata di ribasso. Allora, sapete che Berlusconi ha identificato in Giovanni Toti, direttore di TG4 e Studio Aperto, come l'uomo che dovrebbe rilanciare Forza Italia, coordinatore. Ovviamente c'è stata una rivolta all'interno del partito, perché molti politici lungo corso del partito dicono: ma come, noi che ti siamo stati fedeli per anni, caro Silvio, vorremmo essere noi adesso, non una persona che viene catapultata dal mondo dell'informazione a gestire il partito. Bene, big in rivolta, Berlusconi va avanti, senza Toti finiamo fuori mercato, così il titolo su Repubblica, mentre Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano dedica una pagina a Toti, TV e Brasato, la buona forchetta che ha sedotto Berlusconi. Insomma, c'è questa figura che però non riesce a imporsi all'interno del partito, proprio perché il partito è diviso sulla sua nomina. Mentre problematiche ci sono anche nel Movimento 5 Stelle, che non è riuscito a partorire una lista per la Sardegna per le divisioni interne. E tra l'altro farà discutere che Andrea Malaguti fa un senatore, il senatore Campanella, intervistato sulla Stampa a pagina 8, Beh, parla anche dei due responsabili del partito, Casaleggio e Grillo. Casaleggio è un uomo nascosto, si muove dietro le quinte. Lui, a differenza di Grillo, non aveva pendenze penali, poteva candidarsi. Perché non si è messo in gioco? E poi di Grillo che pensa? Non lo so, io l'ho conosciuto come una persona coinvolgente, piena di umanità, una calamita di consenso, e nel complesso l'idea che ho di lui è ancora positiva, ma passare dal magnetismo di Grillo a Casaleggio è come passare da Scarlett Johansson a Zia Teresa. E chi è Zia Teresa? Appunto, chiede, risponde così il senatore Campanella. Insomma, qualche critica anche all'interno del movimento 5 Stelle. Vabbè, allarghiamo un po' gli orizzonti. Io vi voglio raccontare una storia che c'è su tutti i giornali e che riguarda un ragazzino di 15 anni pakistano. Si chiama Aizaz Hassan, o meglio si chiamava Aizaz Hassan, e in Pakistan viene ora celebrato, e anche in tutto il mondo, visto che la sua storia appunto approda anche sui giornali internazionali, anche i giornali italiani, come un eroe. Il Pakistan piange Aizaz, eroe ragazzino. Questo è il titolo, per esempio, dell'articolo di Barbara Schiavulli che trovate a pagina 9 del Secolo XIX. Cosa ha fatto questo ragazzino? Era un ragazzo qualunque, Aizaz. Oggi il suo paese, il Pakistan, gli rende omaggio. Non esiste un'età giusta per essere eroi, né una nazionalità, una religione, un genere. C'è soltanto quel preciso istante in cui si pensa agli altri prima che a se stessi. Non importa altro. E allora Aizaz Hassan Bangash aveva 15 anni, era grassottello, cresciuto in una provincia pakistana messa negli ultimi anni a ferro e fuoco dai talebani. Andava benino a scuola, ma era pur sempre un ragazzino, e lunedì era fuori dall'edificio in punizione per un ritardo. Chiacchierava con gli amici prima di essere riammesso, quando lo ha visto. Ha visto un kamikaze con la divisa del suo istituto, un ragazzo bomba pronto a fare una strage tra i 2000 studenti, molti dei quali in assemblea. Aizaz non ha ascoltato chi gli diceva di non andare, pensava a quelli che rischiavano, forse agiva d'istinto, ma voleva fermare quella persona armata di odio e di esplosivo. Gli ha lanciato prima un sasso, poi si è gettato addosso, un attimo di lotta, poi l'attentatore, preso dal panico, si è fatto esplodere tra le braccia di Aizaz, che è saltato con lui. Quell'abbraccio mortale ha salvato tutti gli altri. Ora Aizaz, che gli amici prendevano in giro per il suo peso, è un eroe per il paese e per chi crede che le grandi gesta esistano ancora. Inizia così appunto il racconto, ma anche su Repubblica c'è una pagina, firma Francesca Caferri, l'ultimo eroe del Pakistan. Aizaz muore a 15 anni per fermare un kamikaze. È lo studente che ha fermato l'uomo che voleva far saltare in aria la sua scuola e così ha evitato una strage. È una storia che trovate appunto su Repubblica, sul Secolo XIX, ma anche il Corriere dedica una pagina a questo. Siamo alle ultime segnalazioni. La prima, ricordate la vicenda del serial killer evaso per un permesso premio, il carcere di Marassi? Abbiamo avuto anche ospite il direttore del carcere di Marassi, Mazzeo, e il ministro Cancellieri ha detto sapeva tutto, e quindi provvedimenti. Sapete che provvedimenti sono stati presi? Nessuno. Il serial killer evaso, il direttore del carcere resta a Genova, e Mario Giordano, tra l'altro, in prima su Libero, liberò il serial killer, perdonato, è già al suo posto. Vabbè, come detto, è arrivata la Gazzetta, incredibilmente, questa mattina. Zero titoli, l'Inter eliminata anche in Coppa Italia, niente. Mercoledì Coppa del Nonno, c'era almeno quello, non Champions League, come l'unica squadra italiana rimasta in Champions League. Qual è l'unica squadra italiana rimasta in Champions League? Fa un movimento di sopracciglia l'Alpino, e capisco che dice il mitico Milan, e invece manco Champions League, manco Coppa Italia, zero titoli. Vabbè, tante volte vedi uno vince il derby e poi patatrac. Vabbè, siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, il momento del premio La Carta Costa, e qui oggi Libero si supera, perché l'articolo è piccolo, non è un articolo gigante, ma è un articolo dedicato al bersaglio, uno dei bersagli preferiti di Libero, vale a dire il ministro Cécile Kyenge, pagina 4, ma vi rendete conto, io non gliela faccio. Libero nota questo. Il ministro Cécile Kyenge ha tre collaboratori che fanno questi cognomi. Attenzione, il segretario particolare è Paolo Negro, il capo di gabinetto Angelo Carbone e il consigliere per la cultura Marco Marrone. E allora articolo di Libero: Negro, Marrone, Carbone, Cecil si fa il suo monocolore. Ma vi rendete conto, amici di Libero? Un articolo perché la ministra nera ha i collaboratori Negro, Carbone e Marrone. Andiamo al giornale radio, va la carta costa, rientriamo per parlare delle unioni civili, adozioni alle coppie omosessuali. Avremo con noi il viceministro al lavoro, Maria Cecilia Guerra. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta 24 Mattino. Siamo qui, eccoci, ben ritrovati cari ascoltatori, da Alessandro Milan. Sono le 8 e 17 minuti in punto. Allora, ieri l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, il ministro Alfano è stato molto netto, cioè se il PD e la maggioranza propongono il matrimonio tra le persone dello stesso sesso, noi usciamo dal governo. Ma vogliamo risentire le parole del ministro Alfano? Se propongono il matrimonio gay, ma noi ce ne andiamo un attimo prima, ma a gambe levate, denunciandolo all'opinione pubblica. Non è che abbiamo bisogno di farci su un seminario di studi per arrivare a questa conclusione. Allora, la posizione è questa. La risposta di Alfano arriva alla fine di una giornata che è stata caratterizzata ieri da un'intervista apparsa sul Corriere della Sera, un'intervista al vice ministro del welfare che ha la delega alle pari opportunità, Maria Cecilia Guerra, e in questa intervista ha detto il ministro Guerra: non ci sono motivi per trattare in modo diverso una coppia omosessuale rispetto a una coppia eterosessuale. E poi più avanti sul tema delle adozioni, anche dicendo, parlando a titolo personale, dice: personalmente sono favorevole all'adozione per le coppie omosessuali perché sono a favore di una piena equiparazione. Vice ministro Maria Cecilia Guerra è qui con noi, la ringrazio e la saluto, buongiorno e benvenuta ovviamente. Buongiorno a voi. Tra l'altro, in questa intervista lei ha anche citato la grande apertura di ascolto fatta di recente su questo tema, o comunque a fine, dal Papa. Per questo io voglio salutare anche la professoressa Lucetta Scaraffia, che insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza, editorialista e osservatore romano, spesso nostra ospite. Ben ritrovata, professoressa. Eccoci. Buongiorno. Allora, intanto, vice ministro Guerra, vogliamo chiarire la diatriba politica. Sentito le parole di Alfano, sono molto nette. Lei come replica? Ma Alfano si riferiva all'inserimento di un'ipotesi di matrimonio fra persone dello stesso sesso come ipotesi del patto di governo. Io nella mia intervista ho escluso assolutamente che il governo come tale debba prendere un'iniziativa su questo tema. Questo è un tema che deve essere affrontato fuori da schemi ideologici e soprattutto fuori da schemi di partito. Non è l'appartenenza al PD piuttosto che al Nuovo Centro Democratico che deve portare a il Nuovo Centrodestra che deve portare ad essere per una posizione o per l'altra. Un tema che interroga le nostre coscienze, la visione che abbiamo dei diritti civili nel nostro paese, ed è un tema che vede posizioni differenziate trasversalmente all'interno dei diversi partiti. Quindi è tipicamente un tema che deve seguire ed essere affrontato, deve seguire il confronto parlamentare. In Parlamento. Dopodiché, certo, lei dice dal punto di vista del governo non c'è nessuna iniziativa, no, di questo tipo. Io, pur avendo la responsabilità su questo tema, non penso che sia giusto in questo momento e probabilmente mai farlo come azione, proporre un intervento come azione di governo, perché appunto il governo in ogni caso rappresenta comunque una maggioranza, ma qui non si va avanti a colpi di una maggioranza precostituita politicamente su altri accordi. Qui certo, è un tema che deve essere posto all'opinione pubblica. Però e lei nel suo complesso in Parlamento. Chiaro, lei pur parlando a titolo personale, lo ha detto nell'intervista, quando dice non ci sono motivi per trattare in modo diverso una coppia omosessuale rispetto a una eterosessuale, io diciamo, visto che lei non ha usato la parola matrimonio, ma glielo chiedo sempre a titolo personale, quindi lei sarebbe a favore del matrimonio? Sì, assolutamente, cioè noi dobbiamo distinguere il matrimonio come sacramento, e quello ovviamente rientra nella sfera religiosa in cui non sono io titolata a parlare, ma il matrimonio inteso come istituto del nostro diritto civile, che ha una funzione che però dà anche un riconoscimento sociale a una formazione sociale come quella della famiglia, della coppia che si costituisce, è un istituto che secondo me non dovrebbe discriminare in relazione all'orientamento sessuale delle persone che la formano, perché siamo comunque di fronte a persone che si mettono insieme sulla base di un legame non solo d'amore ma anche solidaristico, e cioè che si impegnano reciprocamente con diritti e con doveri a affrontare insieme anche le avversità della vita, fra cui le difficoltà sanitarie, l'eventuale carcerazione di uno, i problemi patrimoniali, eccetera. Quindi abbiamo proprio un atteggiamento di solidarietà che va comunque incentivato e riconosciuto. Quindi diciamo la sua risposta ad Alfano in realtà è una risposta, dice, visto che non c'è nessun provvedimento allo studio del governo, non c'è, può stare tranquillo Alfano da questo punto di vista, anche se... Certamente io credo che il fatto che ci sia un'alleanza di governo che vede orientamenti diversi su questo come su altri temi non impedisce che su temi che sono che hanno appunto a che fare con la visione dei diritti civili o etici in senso lato ci possa essere un confronto ampio anche in Parlamento, in cui non sarà facile comunque arrivare ad una sintesi, perché è ovvio che le differenze di posizione si ripresentano, però non questi temi non faranno mai un passo avanti nel nostro paese se continueremo a considerarli temi da campagna elettorale. Ma questo sono d'accordo, cioè se appena un esponente importante del governo parla, anche se a titolo personale, comunque è un esponente politico, e dice un'opinione, subito la reazione contraria è: se c'è questo ce ne andiamo, cioè subito si pone il problema all'italiana, diciamo così, Vice Ministro, cioè per slogan, senza un dibattito approfondito. Questo è quello che lei ha voluto mettere. Ma non credo però che Alfano rispondesse a me. Alfano si poneva un problema rispetto a un tema che è stato sollevato anche dal segretario del Partito Democratico, e quindi ha posto in chiaro che questo tema non deve far parte del patto di governo. Allora, siccome poi adesso arriveremo anche alla questione adozioni, che è se vuole anche un passo ulteriore, io però prima vorrei già un commento della professoressa Lucetta Scaraffia. Insomma, ha sentito la professoressa Scaraffia, di recente ho letto anche un suo articolo che ho trovato su internet, sul un sito dell'Unione Cristiani Cattolici Razionali, tratto ovviamente dall'Osservatore Romano, che lei ha scritto proprio contro i matrimoni. Ha sentito il Vice Ministro, è seppure a titolo personale invece favorevole, cioè sarebbe un atto discriminatorio non garantire anche alle coppie dello stesso sesso, al di là dell'aspetto religioso che è un'altra cosa, quel patto civile, cioè quel matrimonio come possono fare due coppie, una coppia eterosessuale. Lei che risponde? Intanto vorrei ricordare anche quello che è successo in Francia, in cui la Francia si è veramente spaccata sul matrimonio omosessuale, perché quindi non è, ed era un matrimonio non religioso, ma un matrimonio civile. Cioè il matrimonio è qualcosa che unisce da sempre due persone di sesso diverso e li inserisce nella catena delle generazioni. Cioè il matrimonio è pensato come istituzione per proteggere la famiglia, da cui nasce una famiglia, e quindi di lì nasce tutto il problema della generazione successiva. Due omosessuali per definizione non possono generare. Se lo fanno con i metodi, diciamo, della nuova ingegneria genetica, comunque il figlio, come lei sa bene, non sarà mai figlio di tutti e due, ma di uno dei due con ovuli o sperma che viene, diciamo così, comprato. Questo succede, ottenuto in altro modo. Anche, ma non sono suoi figli. Succede anche sulle coppie eterosessuali, laddove, sì, però, laddove è possibile la fecondazione. Succede sempre nelle coppie eterosessuali. Chiaro. C'è una piccola percentuale in cui succede quello. Quindi è diverso, lì costitutivamente succede, che è un'altra cosa. Invece, quindi, il matrimonio, anche civile, è qualcosa che non ha a che vedere con la coppia omosessuale. Però io, a differenza di Alfano, penso che ci sia un problema su cui riflettere. Quando Alfano dice non c'è niente da riflettere, penso che ci sia molto su cui riflettere, e tra l'altro è quello che ha detto anche il Papa Francesco. Papa Francesco non ha detto vanno benissimo i matrimoni omosessuali, ha detto è un problema nuovo su cui dobbiamo riflettere, e ha cominciato a riflettere da un punto di vista che per i cattolici è molto importante, che è quello dei figli comunque delle coppie omosessuali che risultano figli di una coppia omosessuale, che magari sono battezzati e che frequentano la Chiesa. Sì, le parole del Papa, io le ho lette, sarebbero state queste in un colloquio con i gesuiti. Ricordo il caso di una bambina molto triste che alla fine confidò alla maestra il motivo del suo stato d'animo, cioè la fidanzata di mia madre non mi vuol bene. Cioè a dire ci sono situazioni nuove sempre più da affrontare anche per la Chiesa. Ma ci poteva anche succedere il fidanzato di mia madre non mi vuol bene, da questo sì, punto chiaro. Di vista non mi sembra così significativo. Io penso però che c'è molto da lavorare sulla diciamo così garanzie legali da dare alle coppie omosessuali, perché come ha detto il vice ministro prima, ci sono molti problemi, per esempio l'eredità. Quello è un problema, è assolutamente ingiusto che in presenza di una famiglia una persona che convive da anni con un'altra non possa lasciare i suoi beni a quest'altro con cui magari li ha condivisi, li ha costruiti. Quindi ci sono alcuni problemi giuridici da risolvere, anche se i problemi delle visite in ospedale, delle visite in prigione sono già risolti, nel senso che se poi nella pratica non vengono realizzati è un altro conto, sì. Ma diciamo così dal punto di vista giuridico ci sono problemi legali interessanti, però il punto che mi pare di sul quale posso ricoinvolgere il vice ministro Guerra intanto è la questione, ha sentito la professoressa Scarafia, dice il matrimonio è storicamente da sempre anche un patto per generare, e invece laddove si vuole fare un matrimonio tra due persone dello stesso sesso per generare devono ricorrere a metodi non naturali, diciamo così. Vice Ministro, perché lei è aperto anche all'adozione per le coppie omosessuali? Diciamo che ci sono due aspetti, uno è già stato sottolineato, cioè l'aspetto che mi sta più a cuore è proprio quello della possibilità di riconoscere a una coppia omosessuale il figlio naturale di uno dei due. Cioè noi abbiamo molti bimbi, cioè, i numeri esatti non li abbiamo, si parla di 100.000 bambini che vivono in Italia con una coppia omosessuale essendo figlio naturale di uno dei due partner, e questi ricevono affetto, accudimento per anni da entrambi gli adulti di riferimento. Se succede che il padre naturale o la madre naturale viene meno per qualsiasi ragione, l'altro non ha riconosciuto alcun tipo di legame pur essendosi occupato per anni con affetto e con dedizione del bimbo, e questo è veramente una cosa a cui dobbiamo porre rimedio molto velocemente. Quindi la prima adozione su cui dobbiamo interrogarci, ma ripeto serenamente, proprio sì, per andare a sanare una situazione che comunque esiste rispetto alla quale non possiamo chiudere gli occhi, è questa dell'adozione dell'altro e questo sia per gli eterosessuali ma anche per gli omosessuali. Lei sicuramente, io sto parlando proprio per gli omosessuali, certo, perché per gli eterosessuali, certo, questo tema non si pone, nel senso che sono entrambi di solito genitori naturali e quindi i figli nati fuori dal matrimonio sono comunque ormai pienamente parificati agli altri, e questo è un punto su cui mi sentirei di contestare con delicatezza il tema del quello che è storicamente determinato, perché noi non possiamo pensare, la storia si è evoluta moltissimo, l'istituto del matrimonio è uno di quelli che ha avuto l'evoluzione più radicale nel corso degli anni, e noi siamo in Italia adesso in una situazione in cui circa un quarto, il 25% dei bimbi nasce fuori dal matrimonio, quindi per forza ed è in questo, è solo in questo senso che facevo riferimento alle parole del Papa. Il Papa si poneva il problema dal punto di vista dell'educazione religiosa, diceva noi dobbiamo ovviamente tenere conto di una realtà che è mutata, e io vorrei portare anche questo discorso all'interno anche della disciplina civile, dobbiamo tener conto di una realtà che è mutata, in cui questa realtà di bimbi che sono e vivono dentro famiglie in cui i genitori sono omosessuali è un tema che non possiamo non affrontare, ma proprio a partire dal benessere dei figli. Le chiedo anche se si può fare un passo ulteriore a dire aprire anche all'adozione tout court proprio di una coppia omosessuale. Lei sa, per esempio, quando si parla di adozioni internazionali, il caso delle famiglie in Congo, noi l'abbiamo affrontato, il Congo è un paese, ma anche la Russia di recente ha detto noi non daremmo mai, mai i nostri bambini in adozione internazionale a quei paesi laddove si dà la possibilità di adozione per le coppie omosessuali. Questo è un problema, secondo lei, da porsi? Il problema da porsi è perché questi paesi, la Russia, parlo in particolare della Russia che appartiene comunque all'Europa, e lo stesso vale comunque anche per il Congo e altri paesi, abbiano una posizione così ostile nei confronti dell'omosessualità in generale. Cioè, questa, noi diciamo, paesi in cui è una decisione. È una decisione, diciamo, da sovranità di Stato sulla quale non possiamo. Dal punto di vista dei principi internazionali, noi possiamo e dobbiamo pronunciare infatti, tant'è che noi abbiamo da dire, perché per esempio come Unione Europea noi abbiamo una politica di accoglienza, cioè noi concediamo il diritto d'asilo alle persone che fuggono da paesi in cui potrebbero essere perseguitati in quanto omosessuali, quindi noi entriamo comunque, non è che diciamo che non c'entriamo con la disciplina degli altri paesi, entriamo perché capiamo che quella è una discriminazione grave, quindi riconosciamo come persecuzione, quindi come elemento che dà un diritto d'asilo alle persone che possono essere perseguitate in patria per questo motivo. Mi interessa sul tema che lei pone, però che non voglio sfuggire, anzi io personalmente ritengo che la coppia omosessuale sia assolutamente in grado di essere considerata affidataria, quindi anche in termini di adozione di un bambino, anche supportata in questo dagli studi che sono stati fatti e che dimostrano che bimbi che sono cresciuti con due adulti dello stesso sesso non presentano delle difficoltà per questa ragione superiori o diverse rispetto a quelle di bimbi che sono cresciuti in coppie di sesso diverso. Tra l'altro, con tutte le famiglie ricomposte che noi abbiamo, i nostri bimbi sono abituati ad avere una serie di adulti di riferimento molto spesso, e quindi anche questo tema deve secondo me essere affrontato in modo più sereno. No, ma questo è molto interessante. Vorrei un parere della professoressa Scaraffia, poi devo andare in pubblicità, dovremo salutare il vice ministro Guerra, ma noi continueremo questo dibattito anche con gli ascoltatori e con altri ospiti. Allora, professoressa Scaraffia, ha sentito non solo l'adozione, anche l'apertura agli omosessuali e poi insomma l'accusa neanche tanto velata di dire, e quando lei si fa un riferimento storico, i tempi cambiano, io la traduco così, e non è che ci si può i ancora... I tempi cambiano, però i bambini li fanno sempre un ovulo, uno spermatozoo, un ma uomo, questo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista no, diciamo... non è tecnico, hanno un riferimento maschile e femminile. I figli di una coppia omosessuale vengono così ingannati dal fatto che gli si dice che hanno due papà o due mamme, quando loro non hanno due papà e due mamme, hanno un papà e una mamma, e quindi questo crea una grande confusione. Ci sono molti studi invece, anche psichiatrici, cognitivisti, che dicono che per i bambini è un problema molto grave non poter costruire fin dall'infanzia, diciamo, il loro sapere su un registro doppio, no? In cui sì, ci sono, ma sa su cosa femminile. Dico i tempi cambiano, che ci ha detto il vice ministro, sono già 100.000, non so se questa è la cifra esatta, le persone che di fatto, di bambini che vivono con due papà o due mamme, quindi che in questo i tempi cambiano. Scusi, c'è una differenza fra questi bambini, io ho letto tutte le cose sulle famiglie arcobaleno, la massima parte di questi bambini sono stati concepiti in una coppia, diciamo così, eterosessuale, poi uno dei due genitori ha scoperto di essere omosessuale e si è portato via il bambino, però hanno un papà e una mamma, non è che non hanno un papà e una mamma, questa è la cosa che a ma me importa. Ma naturale, bambini... però magari crescono dal punto di vista naturale. Crescono con due papà o con due mamme, però sanno che hanno un papà e una mamma, la cosa tremenda è, diciamo così, l'inganno, i bambini costretti a pensare di avere due papà e due mamme. In questi casi in cui hanno un papà e una mamma, certo che se morisse il loro papà e la mamma vero e la persona con cui hanno vissuto sempre non ha nessun diritto su di loro, è un problema, ma questo è uno dei tanti problemi giuridici che possono venire affrontati senza tirar fuori il matrimonio. Tra l'altro lei sa che ci sono state delle recenti sentenze che hanno stabilito che dei bambini potevano vivere con delle coppie omosessuali e essere affidati a delle coppie omosessuali, però sapendo benissimo che era il loro papà e la loro mamma. Chiaro. Però cioè, mi scusi se insisto, su questo punto, lei dice l'inganno, però un bambino, non so, poniamo un bambino, un caso concreto, un bambino di 3, 4, 5, 6 anni, cioè che non ha ancora la cognizione di come si fanno i figli, del fatto degli ovuli, degli spermatozoi, eccetera, viene ingannato se si trova adesso in una situazione, magari è nato in una coppia eterosessuale, ma adesso si trova in una situazione di coppie omosessuali. Cioè, se gli dicono che quelli sono i suoi genitori, sì, se gli dicono tu vivi con noi, ma la tua mamma è là o il tuo papà è là, no. Cioè, guardi che i bambini di 3 anni adesso hanno sempre capito moltissimo. E comunque ci sono studi interessantissimi in cui si capisce che, da cui si sa che i bambini dalla sola inflessione di voce capiscono immediatamente che c'è un maschile e un femminile. Sì. Quindi che poi capiscano il rapporto con la generazione ci vogliono anni, ma lei come lei sa, la comprensione della realtà si fa a gradi. E questo sì, no, che capiscano a quell'età lo so benissimo, avendone due è un dramma. Vice ministro Guerra, noi nel ringraziarla, se vuole replicare le faccio un'ultima domanda prima della pubblicità sulla questione dei conti pubblici, visto che lei è anche vice ministro del lavoro, questa delega, e cioè se questa apertura voglio dire comporta anche sui nostri conti pubblici, che non sono certi molto sani, degli aggravi dal punto di vista previdenziale, per esempio, perché apre tutto un lungo dibattito su questo. Ma guardi, su questo noi viviamo come sempre in una grande ipocrisia, cioè è vero che se noi riconoscessimo il matrimonio ovviamente avremmo l'accesso della coppia omosessuale a istituti come la pensione di reversibilità, nello stesso tempo però se noi non lo riconosciamo noi abbiamo che i genitori naturali, anche omosessuali, di bimbi in cui non venga riconosciuto appunto l'apporto dell'altro genitore vengono considerati ai nostri fini come monogenitoriali e quindi accedono in misura superiore a istituti come gli assegni familiari e le detrazioni fiscali, per cui i conti andrebbero fatti da tutte e due le parti, ma dal 1998, e quindi sono passati un bel po' di anni, noi abbiamo un istituto che tutti conoscono che si chiama l'ISE, cioè l'indicatore della situazione economica con cui viene valutata la condizione economica delle famiglie per poter definire se hanno diritto a tariffe agevolate, ad esempio per gli asili nido, per le mense scolastiche, sì, per i servizi per gli anziani. Ecco, questo istituto, l'ISE, prende a riferimento la famiglia anagrafica, cioè tutte le persone che vivono sotto lo stesso tetto, e quindi da questo punto di vista la famiglia in cui la coppia è omosessuale viene considerata famiglia con gli aggravi che questo comporta perché i redditi di entrambi i genitori concorrono a determinare la condizione economica del figlio quando deve andare all'asilo e lì non ci siamo mai fatti scrupoli di dire ma come? Quando gli dobbiamo far pagare di più non ci facciamo scrupoli, adesso cominciamo a tirar fuori che dobbiamo negare un diritto perché ci potrebbe essere un aggravio in termini di pensione. Ma in genere funziona così, quando lo Stato ci deve chiedere soldi non si pone grandi problemi di chi li deve dare, quando invece bisogna darli è diverso. Io, Vice Ministro, la ringrazio per essere stata con noi, Maria Cecilia Guerra, il dibattito ovviamente è aperto, noi lo continuiamo tra un attimo insieme alla professoressa Lucetta Scaraffia, ci raggiungerà, visto che la nominate anche lei, professoressa Tommaso Giartosio dell'Associazione Famiglia Arcobaleno, vorrei sentire anche tra poco il parere dei nostri ascoltatori al solito numero 800 24 00 24, riprendiamo tra tre minuti. 24 mattina. Eccoci qui alle 8:40 minuti, stiamo parlando del dibattito rilanciato ieri dal Vice Ministro Guerra che è stata con noi fino a pochi istanti fa sul matrimonio omosessuale. Con noi c'è la professoressa Lucetta Scaraffia e ci ha raggiunto Tommaso Giartosio dell'Associazione Famiglia Arcobaleno che saluto. Buongiorno Giartosio, eccoci qua. Buongiorno a lei, buongiorno a Lucetta Scaraffia. E anche collega di Radio Rai, lo voglio dire, e dove conduce la trasmissione Fare Night. Allora, io intanto devo dire, incredibilmente fino a questo momento Giartosio non è arrivato nessun messaggio, sempre succede in questi casi, stavolta no, qui dice ma con tutti i problemi che ci sono parlate di queste cose, come se il fatto che ci siano dei gravi problemi nell'Italia, sappiamo anche più profondi eccetera, non, debba comportare che uno non possa occuparsi anche di altre cose. Vabbè, insomma, Giartosio, questo lo ascriviamo come un qualcosa di un passo avanti, magari un piccolo passo avanti oppure no? Ma credo che un motivo sia che si incomincia a percepire che ciò di cui ha parlato nell'intervista il Vice Ministro Guerra non è una misura estrema, ma è una misura prima, cioè in genere c'è una sorta di gerarchia più o meno esplicitata delle misure di legge che si possono adottare per venire incontro alle esigenze di una parificazione dei diritti tra omosessuali e eterosessuali. Si parla, non so, di una legge contro l'omofobia, poi di matrimonio, poi di adozione. In questo caso invece ci si incomincia a rendere conto, credo, che l'adottabilità, in particolare del figlio del partner, che è un po' il nodo che tocca il Vice Ministro Guerra, è la prima misura da prendere, sì, perché è il punto in cui le coppie omosessuali vanno a toccare i loro figli, in cui il cambiamento riguarda delle persone che tra l'altro in grande maggioranza omosessuali non sono o non saranno e che però rischiano di risentire di un'ingiustizia di fatto. Tra l'altro, penso che sia questo il motivo. Sì, nel presentare sono stato secco, ma Famiglia Arcobaleno, magari dobbiamo dire, sono insomma le famiglie, persone, donne, uomini che hanno scoperto la propria omosessualità dopo aver avuto figli in relazioni eterosessuali e che ora quindi crescono i figli all'interno di coppie omosessuali. Voi nel vostro sito ci tenete subito a dire siamo famiglie. Sa Giartosio che molti non la pensano così, siete famiglie di fatto ma molti non la pensano così, non la pensano famiglia dal punto di vista del diritto per esempio. In realtà aggiungo a ciò che lei ha detto che moltissimi dei soci di Famiglia Arcobaleno, probabilmente la maggioranza, sono coppie di uomini o di donne che hanno deciso di avere figli una volta unite e li hanno avuti all'estero attraverso la fecondazione assistita. Chiaro. Questo è vero, però è anche vero che di fatto veniamo considerati famiglie, cioè c'è un buon senso irrecusabile contro cui si va a sbattere. Mi ricordo che mi colpì molto qualche anno fa Berlusconi stesso, che usò l'espressione famiglie omosessuali, perché era inevitabile che nella scuola molto difficilmente un maestro o una maestra dirà a un bambino: no, quella non è la tua mamma, quello non è il tuo papà. Cioè, quella socializzazione che il bambino riconosce, che ovviamente riceve, ma riconosce anche in modo forte e che porta nello spazio pubblico, viene riconosciuta anche dalle altre famiglie, dagli insegnanti, dai pediatri. Sì, però ha sentito prima la professoressa Scaraffia diceva una differenza è appunto tra chi si scopre omosessuale e però prima ha avuto un figlio in una relazione eterosessuale, quindi ha avuto un figlio che comunque naturalmente ha una madre o un padre, e diversa invece la situazione di inganno nei confronti del bambino che nasce da due padri o due madri. Lei che replica, visto che è qui ad ascoltarlo? Ma io non vedo proprio dove sia l'inganno, francamente. I nostri figli non solo non sono oggetto di inganno, ma sono tra i bambini meglio informati sulle loro origini e su come nascono i bambini che ci possono essere. Sono quelli che sanno perfettamente che per far nascere un bambino ci vuole l'ovetto, ci vuole il semino, ci vuole la pancia, e che sanno esattamente da dove vengono questo ovetto, questo semino e questa pancia, ma sanno anche che ciò che fa di quel bambino un figlio o una figlia è il fatto che ci siano dei genitori che si curano di lui. Questo sì, però sono questi i genitori. Però mi scusi, e non so, professoressa Scaraffia, cosa vuole replicare a questo? Cioè, io dico, penso che non è che ciò che fa di un bambino un figlio è solo l'amore. Questa è una cosa sbagliata, perché ciò che fa di un bambino un figlio è anche il suo inserimento in un rapporto tra le generazioni, è anche il suo rapporto con la madre che l'ha portato nella pancia, che ha dato l'ovulo, per esempio, o col padre che ha venduto il suo spermatozoo, la mamma che ha venduto la sua pancia, il suo ovulo. Che poi bisogna anche ricordarci che dietro a queste nascite così poetiche ci sta un terribile mercato, uno sfruttamento di donne dei paesi poveri. Cioè, queste cose vanno ricordate, perché non ho mai visto le persone, le donne di paesi benestanti affittare la loro pancia. Cioè, anche questo dovrebbe far molto riflettere, che dei bambini, però queste famiglie nascono sullo sfruttamento e sulla vendita di pezzi del corpo, di prodotti del corpo. Sono delle cose che forse andrebbero prese in considerazione. C'è il giartosio che aveva. Posso dire ancora una cosa? Questi bambini sono informati, ovetto, eccetera, però non potranno mai conoscere quella donna che li ha portati nella pancia, quell'uomo che ha venduto suo spermatozoo alla banca del seme. Questo non è giusto, programmatico. Poi esistono, lo so benissimo, nella vita dei bambini che poi non hanno mai potuto riconoscere in genere il padre, la madre è molto più difficile, o comunque negli orfanotrofi, né il padre né la madre, ma sono sempre stati considerati dei bambini un po' disgraziati. Perché conoscere il proprio padre e la propria madre è un diritto umano, è una cosa, infatti, come lei sa benissimo, in molti paesi dove c'era l'anonimato di queste pratiche, soprattutto del dono dello sperma, a poco questo anonimato è stato impedito dalla legge, perché c'è un diritto dei figli di sapere chi è il padre. Certoso, chi aveva su questo ragionamento da replicare? Ma sulle cose che dice la professoressa Scaraffia però sono in parte false, nel senso che in tutti i paesi occidentali che permettono la gestazione per altri, parlo di Stati Uniti, Canada, Inghilterra, ci sono controlli rigorosi sulla condizione economica, e sto parlando proprio di controlli bancari, per esempio, si verifica anche attraverso esami psicologici che le persone, le donne, gli uomini, le donne in particolare, penso alle portatrici, coinvolte in questi processi per mettere al mondo dei bambini siano consapevoli di quello che fanno, ma non solo consapevoli, spesso sono persone orgogliose che rimangono nella vita della famiglia, che i bambini conoscono come le zie, tra virgolette, che gli hanno permesso di venire al mondo, e quindi molto spesso un rapporto di conoscenza, di informazione. Ho capito, per la maggior parte delle volte lo faranno per soldi, immagino, no? Per la maggior parte delle volte lo faranno per denaro. Guardi, non è così. Non è così. Scusi, lei è una donna normalmente benestante che affitta la sua pancia? No. Sì. Cioè, è un caso che forse andrebbe preso. Ne ho conosciute parecchie, lei la stupirebbe, ma è esattamente così. Tant'è vero che la donna che ha messo la luce, che ha messo al mondo i miei due figli, mi ha detto esplicitamente: guardi, io avrei guadagnato sicuramente di più a trovarmi un lavoro, ho voluto fare questo, ho voluto farlo in un momento in cui era una condizione di benessere economico tale da essere sicura di non farlo per bisogno di soldi. Di farlo come Ingegnere che va a lavorare nell'Africa subsahariana riceve uno stipendio. Però questo non vuol dire che non ci sia un aspetto vocazionale nella sua scelta. Allora 800 24 0024, vediamo gli ascoltatori. Paolo da Genova. Paolo, buongiorno. Buongiorno, io ho chiamato perché sono stupito dal fatto che qualcuno si stupisca che il ministro delle pari opportunità abbia questa posizione. Quale altra posizione potrebbe avere? Finalmente c'è un ministro che veramente ne fa un punto di pari opportunità e per cui non vedo veramente lo stupore. Inoltre vorrei dire che secondo me l'adozione, per esempio, l'adozione per gli omosessuali è un tema molto dibattuto, non è che è, peraltro, il vice ministro, non è che un vice ministro, siccome si occupa delle pari opportunità, deve per forza essere a favore delle adozioni per omosessuali. No, assolutamente no, questo no. Però a proposito proprio delle adozioni degli delle coppie omosessuali, la signora Scarabia, secondo me, mescola le cose, perché il problema che dice dei bambini è lo stesso problema che hanno tutti i bambini che nascono con una procedura non naturale, che siano di coppie omosessuali o no. Per cui non c'è questa parte di discussione che... Però lei dice nascono in modo naturale, ma da un padre e da una madre, cioè dal punto di vista biologico. No? Non c'è assolutamente nessuna differenza, per cui è al di fuori del discorso della adozione di una coppia che sia omosessuale o non omosessuale. Se nasce in maniera non naturale, può darsi che abbia che abbia qualche tipo di problema, che abbia qualche domanda da porsi, che voglia riconoscere, che però voglia vale per tutti, lei dice vale però per vale tutti per i casi tutti. Però infatti la fecondazione eterologa in Italia non si può fare, per esempio, su questo. Professoressa Scarafia, ha sentito. Poi, tra l'altro, c'è da aggiungere, e anche, non so, tutte le persone che nascono da genitorio eterosessuale sono adottate, magari molti di questi bambini non sapranno mai chi sono i loro genitori naturali, eppure questa cosa viene accettata. Guardi, intanto c'è una cosa, che le disgrazie della vita esistono, e quello dell'adozione di bambini che sono stati abbandonati fa parte del riparare, è un procedimento, diciamo, è un processo di riparazione di un danno che c'è, un danno all'origine. Secondo lei fa differenza se questa adozione di un bambino abbandonato viene fatta da una coppia eterosessuale o omosessuale? Sì, perché la coppia eterosessuale è una coppia che, diciamo così, rappresenta la coppia dei due genitori. Del ricrea una situazione originale. Io penso che i bambini, per crescere, devono avere un confronto fra un maschile e un femminile per costruire la propria personalità, e non lo penso solo io, lo pensano tantissime persone, psicologi, sociologi, e anche lo pensano i bambini che hanno voglia. Lei sa benissimo che i bambini la cosa che vogliono di più al mondo è essere uguali agli altri, e quindi questi bambini che non hanno un padre o una madre si trovano comunque una minoranza in difficoltà, quindi creare apposta delle minoranze in difficoltà. Poi certo vogliono bene a chi vuol bene loro, e non è che vanno a dire ai loro genitori omosessuali, che non sono genitori, ma insomma, non vanno a dire loro io sto malissimo, e così non lo osano neanche dirlo a se stessi, ma ci sono stati anche molti studi. Ma questo è un punto interessante sul quale Giartosio, effettivamente, dal punto di vista dei bambini, è innegabile che qualsiasi bambino che si senta diverso, ma sappiamo cosa vuol dire a quell'età, 4, 5, 6 anni, 7 anni a scuola, cioè diverso in una situazione statistica anche diversa da quella che era diffusa normalità, è un po' un problema. Su questo lo vogliamo riconoscere, Giartosio? Cioè, un bambino che ha due padri o due madri. Io sono anche insegnante. Mi succede di avere bambini che sono, per esempio, hanno un retroterra religioso diverso, sono testimoni di Geova, sono di famiglia ebraica. Mi è successo di avere bambini obesi, bambini che avevano un passato in un'altra nazione. Tutto questo può diventare un handicap grave per la socializzazione, oppure può essere una risorsa, qualcosa che aggiunge, che arricchisce. Tutto sta nel fatto che la famiglia lo equipaggi bene il bambino, lavori con la scuola, valorizzi la differenza. Sa cosa diceva la professoressa Scarafia? Che un conto sono, ha usato le sue parole, le disgrazie che possono capitare, un conto è creare volutamente o andare a cercare di creare una situazione. Sì, però con questo criterio, allora, anche una persona che viene dalla Romania, che sposa un altro rumeno in Italia, crea una differenza. Voglio dire, non ha senso. La realtà è che noi portiamo i nostri percorsi di vita e li trasmettiamo ai nostri figli, e questo è inevitabile, ma non è un male, è un bene. Le scuole, per fortuna, sono luoghi di sempre maggiore differenza, e tra l'altro questo corrisponde anche all'esperienza che abbiamo come famiglia Arcobaleno, perché incontriamo delle situazioni di grandissima accoglienza e ascolto. I problemi reali li abbiamo a livello legislativo, non nella scuola, non con il pediatra, con le istituzioni a livello spicciolo, ma con le leggi. Allora, vogliamo sentire anche Igor da Roma. Igor, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, è veramente interessante affrontare il tema dell'adozione dei minori, fermo restando da parte delle coppie non eterosessuali, fermo restando il diritto delle coppie non eterosessuali di regolamentare tutti i diritti civili connessi con la costituzione della coppia. Sì. Però abbiamo in Italia ha imparato soltanto nel 2006, in ritardo rispetto a tutta l'Europa, imparato a girare un po' la prospettiva. Prima la prospettiva era degli adulti, no? Ci si diceva in caso di separazione, certo, a quale dei due adulti dobbiamo dare i figli. Sia breve, Igor, perché devo chiudere, per cortesia. Sono sì. Istantaneo. Invece dal 2006 il diritto è dei figli ad avere i genitori. Allora io mi chiedo se stiamo invertendo un po' la priorità, e cioè stiamo cercando di dare tutela a dei diritti alle coppie omosessuali, sì, travolgendo il diritto dei figli. No, questa è la tematica molto profonda con la quale ci lasciamo. La ringrazio. Io ringrazio Lucetta Scaraffia, Tommaso Giartosio. Ci dobbiamo fermare qui anche per oggi. Riprendiamo lunedì mattina con 24 Mattino. A lunedì.